Ma allora, di sicuro questa fase insolita rispetto agli ultimi 30 anni ha degli elementi positivi. Un primo elemento positivo è che finalmente si parla della nuova Torino-Lione non solo in termini di scontri e ordine pubblico, ma in termini di fattibilità e convenienza o meno dell'opera. Questo sicuramente è un qualcosa che in passato non era mai accaduto, no? Che fosse almeno sulla carta in qualche modo, poi ovviamente facciamo tutte le valutazioni del caso, però fosse messa a tal punto in discussione. Merito ovviamente della lunga lotta degli oltre 30 anni di mobilitazione, del grande lavoro che il movimento NoTav continua a fare. In termini generali la tappa della scorsa settimana e dell'inizio di questo, con l'avvio degli avvisi di gara, quindi non proprio dei capitolati, ma come d'altronde insomma era già previsto che fosse, se da un lato non ci allarma più di tanto, poiché sono altri 6 mesi che si aggiungono agli 8 mesi di stop totale dei lavori all'interno del cantiere, dall'altro lato è ovvio che questa soluzione trovata da Conte rappresenta il classico colpo al cerchio e uno alla botte, nel senso che per non volere esaurire i rapporti insomma con l'alleato di governo Salvini, 5 Stelle insomma hanno apparecchiato questa proposta che gli dà il tempo a lor dire insomma di avere le consultazioni con la Francia e Europa e capire insieme a loro se magari è possibile cambiare qualcosa. È chiaro e evidente insomma che da quel punto di vista lì sarà molto difficile, perché poi insomma è vero che ci deve essere un voto del Parlamento, è vero che Francia e Unione Europea devono essere d'accordo, quindi insomma non è una soluzione semplice. Noi dal nostro punto di vista non possiamo che continuare a spingere, a sostenere tutti coloro, anche quelli nelle istituzioni, che portano avanti la nostra battaglia, quella dell'opzione zero, quella dell'interruzione dei lavori. Dall'altro però è evidente una volta in più come non ci sono governi amici, non ci sono mai stati, anche se insomma all'interno del governo ci sono delle componenti che almeno su un obiettivo insomma condividono le stesse prerogative. D'altro canto insomma poi è il governo insomma che ti dà, no, la direzione complessiva e la regola d'azione. Ieri c'è stato un coordinamento dei comitati molto importante in cui insomma abbiamo un po' analizzato anche con l'aiuto dei tecnici le ultime fasi, abbiamo un po' programmato quelle che saranno le nostre prossime mobilitazioni, le nostre intenzioni, le campagne insomma che vogliamo sostenere. Adesso c'è una prima data molto importante che è quella del 23 marzo proprio a Roma, marcia per il clima, contro le grandi opere inutili e contro le devastazioni ambientali. Quella è la nostra piazza, lì c'è insomma la gente con cui noi vogliamo percorrere il nostro cammino, e lì c'è tutto quello che ci fa ben sperare per il futuro. Poi ovviamente in valle continueremo un percorso, una mobilitazione contro la militarizzazione di un pezzo grosso e importante della valle. Stiamo lanciando tutta una serie di iniziative a bassa intensità che però insomma coinvolgono quei territori che loro non ci vorrebbero far percorrere, attraverso checkpoint, controlli, barriere fisiche, e niente, passo dopo passo insomma siamo convinti e con la volontà di voler continuare insomma questa questa battaglia, vedendo quello che capiterà ovviamente al governo, ma insomma rivestendo quelle che sono le giuste aspettative, sia abbastanza basse, ma questo penso sia chiaro, evidente a tutti. Sì, sei arrivata. No, dico, sei arrivata da sola alla manifestazione del 23 marzo, infatti volevo chiedervi un po' come vi stavate preparando dalla Valsusa, perché appunto poi una delle questioni di cui si parla, ad esempio, no, è l'interlocuzione col governo francese, con Macron, che mi immagino in questo periodo abbia diversi altri problemi, a parte il TAV in Italia, appunto, per questo sabato è prevista la fine delle votazioni in Francia, una grande manifestazione, insomma, le tematiche anche in qualche modo largamente intese anche delle lotte ambientali, di alcuni temi, sono diventati in Francia ormai una questione molto politica, che sta portando appunto a una serie di difficoltà al governo. In Italia si prepara una manifestazione sicuramente differente, però appunto quella del 23 marzo a Roma, volevo chiedervi un po' appunto dalla Valle come vi state organizzando. Dalla Valle c'è molto entusiasmo, si stanno susseguendo assemblee, tantissimi valsusini si sposteranno per scendere a Roma, insomma, nonostante le distanze, ma c'è davvero molto entusiasmo per questa data, che ovviamente rappresenta per noi una tappa importantissima del nostro percorso, ci serve insomma per uscire, no, da quell'isolamento che ogni tanto, stando in valle, uno percepisce, anche se poi insomma non è così, e poi soprattutto ci permette di entrare nel merito, iniziare questo percorso insieme a tantissimi altri sulla lotta ai cambiamenti climatici. I temi ambientali, ecologici, sono molto sentiti in valle, mancava un percorso insomma più strutturato e più specifico in tal senso. Infatti anche per questo siamo davvero molto molto contenti. Noi, prima tu accennavi anche al nuovo segretario del PD Zingaretti, sì. Davvero buffo insomma come il giorno della proclamazione, ecco, abbia citato Greta e movimenti ecologisti dei giovani, dei ragazzi europei, per poi andare il giorno seguente insomma a trovare Chiamparino a sostenere il TAV, che se ne dite, insomma, è tutto tranne una scelta ecologica. E quindi insomma il quadro attorno a noi rimane sempre lo stesso, vecchi e nuovi esperti di politica che si affezionano alle loro poltrone e continuano comunque a rispondere ai dettami delle lobby. D'altra parte insomma ci siamo noi che in quel mondo lì, che con quel mondo lì non abbiamo più tanto a che fare, insomma anche noi spesso veniamo a sapere le cose per in maniera indiretta, insomma non siamo coinvolti direttamente in tutte queste interlocuzioni che ci sono all'interno del governo. Noi insomma che vogliamo continuare a lottare nonostante in Val di Susa continui ad esserci uno stato d'eccezione, sia rispetto ai procedimenti giudiziari, sia rispetto alle condanne, sia rispetto ai controlli alla militarizzazione, una cosa che noi chiediamo e chiediamo con forza, perché c'è un attore, insomma uno dei tanti attori, l'uomo ombra, quello che sta tenendo insomma un po' in piedi tutta la baracca, il Virano. Virano che addirittura pare godere del rispetto e della fiducia di alcuni 5 Stelle, insomma Virano invece, i vertici di Telt sono coloro che noi da subito chiediamo vengano destituiti, proprio perché rappresentano la continuità con quelle politiche che hanno permesso che si arrivasse insomma a una parziale devastazione della valle, a quella che poi la nostra degli ultimi, insomma, più intensa degli ultimi 10 anni. E quindi in questo quadro qui avanziamo passo per passo, pronti insomma a costruire sempre nuove barricate, a trovare le risposte opportune. certo. E va bene, io insomma appunto sentiamo questa necessità di commentare un po' con voi la situazione. Come dicevo in apertura, sono ormai settimane, mesi che una questione che, come dicevi tu, si riusciva a portare al dibattito pubblico soltanto grazie appunto alla forza e alla radicalità del movimento Notav, ormai da settimane, da mesi è tema di dibattito delle prime pagine dei giornali, tema di scontro interno al governo, insomma. Però questo sta portando allo stesso modo al fatto che si vengano dette un sacco di bugie anche su questo tema, su come va l'opera. Insomma, citavo all'inizio questo tema dei fondi, non è una questione banale, no, dire che questi fondi non sono in ballo più, col cavolo che lo dicono. Ma anche tutta l'attenzione data all'analisi costi benefici, cioè insomma di tutti gli aspetti che oggi i media parlano, che i governi discutono, tutte quelle questioni che io francamente trovo le meno interessanti nel momento in cui viene sancito davvero che in ragione di alcuni fattori e di alcuni elementi questa opera non solo non è prioritaria ma non è utile. In tutto questo dibattito qua, negli ultimi mesi, l'avrete notato che scompare invece è proprio un movimento notato e la parte più politica, è la gente della valle, gli uomini e le donne della valle, che sicuramente con il loro portato, no, politico, il loro discorso politico, fanno fatica a inserirsi all'interno di queste dinamiche che stanno un po' più su un altro piano, ecco. Quindi se da un lato c'è tutta la componente tecnica, economica e finanziaria, dall'altra c'è ci sono le scaramucce, insomma, tra partiti e le dinamiche parlamentari più estese, dall'altro insomma c'è chi vorrebbe avere un grande scudo, che è proprio il movimento Notav, insomma, e questo è anche un terreno di battaglia molto, molto difficile, su cui ci stiamo interrogando e su cui ovviamente stiamo cercando anche di trovare delle strategie. Poi di Butad se ne sentono tantissime bugie incredibili, anche Repubblica qui a Torino, insomma, ogni giorno ne dispensa una nuova, vera e propria fake news che oramai sono entrate nel linguaggio corrente di tutti gli opinionisti della domenica che vediamo in televisione. La verità c'è, per chi la vuole cercare, insomma, materiale e il movimento Notav è sempre rintracciabile. La partita però, credo sia importante dirla, non è tutta lì, nel senso che poi oltre alla questione più economica, tecnica, di sviluppo eccetera eccetera, c'è invece tutto un portato grosso che è quello della lotta, del messaggio politico, insomma, che la vittoria in Val di Susa porterà, se mai ci sarà, insomma, in tutto il paese, sia che attraverso la lotta è possibile cambiare il proprio futuro, il destino dei propri territori e delle proprie vite. Questo forse è la cosa che un po' tutti, e questo a 360 gradi, spaventa di più, e forse anche per questo, insomma, che in questo momento qua ci lasciano meno spazio del solito. Certo. E va bene, allora insomma se non vuoi aggiungere altro, ti ringrazio insomma per la possibilità di fare appunto delle valutazioni insieme su quello che sta succedendo, e poi insomma come ci dicevamo ci vedremo anche con i Valsusini nelle prossime settimane anche appunto in questa città, quindi sì, insomma grazie. Alle 2 in Piazza della Repubblica sabato 23 marzo.